Forse sarà capitato anche a voi di pensare che i magistrati del Pur Mani Pulite e tutti i cittadini che hanno a cuore la loro causa, che ritengono fondamentale il loro ruolo ai fini della rigenerazione democratica del paese, di questi giorni dovrebbero essere piuttosto grati al ministro Flick. Che fino a una settimana fa, se ci pensate, nonostante i loro molteplici meriti, quei degni persecutori delle malefatte pubbliche e private erano abbastanza nei guai. L'opinione pubblica sembrava un po' stanca del loro protagonismo, i dirigenti dei loro organi rappresentativi cominciavano a prendere un po' le distanze, i politici si facevano sempre più audaci, insomma, genericamente parlando, per la Procura di Milano tirava una bruttissima aria. E poi è bastato che l'onorevole ministro, che quella mattina doveva essere alzato con un piede sbagliato, sottoponesse a procedimento disciplinare con provvedimento particolarmente brutale uno di quei sostituti che aveva espresso con eccessiva sincerità il proprio punto di vista sul governo, perché dubbi e perplessità scomparissero in un batter d'occhio. In effetti è difficile non mostrarsi solidale con uno che non ha fatto altro che esprimere liberamente il suo pensiero, quale che sia, e tra tutti i magistrati del PUR, naturalmente, il dottor Greco è uno di quelli che più si caratterizzano per prudenza, per cui era praticamente inevitabile che la mazzata la prendesse lui. E poi, un ministro che accusa un magistrato di aver arrecato discredito all'azione del governo, letterale, non fa proprio una bella impressione, perché sembra che imponga l'obbligo dell'assenso non soltanto a un cittadino che in quanto tale col governo non è affatto tenuto ad assentire, ma a una categoria la cui indipendenza è un bene comune per tutti. Quindi il buon Flick, che tra parentesi dovrebbe essere un tecnico insigne insediato allo scopo di realizzare importanti riforme, e in un anno di insediamento non ha combinato straordinariamente niente, ha realizzato quello che in termini calcistici credo si definisca un clamoroso autogol. Gli autogol sono sempre clamorosi. Ne prova il fatto che quando 3 giorni fa un altro magistrato, un po' meno prudente di Greco, ha dichiarato di considerarsi, sentite un po', il cane da guardia che ogni volta che abbaia perché credo aver visto un ladro arriva il padrone e lo prende a calci, che è un modo appena involuto per dire che il governo i ladri li protegge, e quando costui ha detto ciò nessuno ha fiatato, nemmeno per ricordargli che secondo Teofrasto il cane da guardia del popolo non è il giudice ma il malvivente, e che secondo un vecchio proverbio tra i doveri del buon cane da guardia c'è quello di abbaiare meno che può. Ma per tornare a bomba, come si dice, forse il ministro non è quel tontolone che sembra. Forse ha soltanto un senso molto vivo delle priorità. Perché denunciare qualcuno perché ha fatto qualcosa, in definitiva, significa autorizzarlo a fare le cose per cui non lo si denuncia. E di cose strane i magistrati italiani negli ultimi tempi ne hanno fatte parecchiotte. Hanno dimostrato una preoccupante tendenza ad assorbirsi l'uno con l'altro, superando rivalità personali ed ufficio, per bazzeccole come la stesura di sentenze suicide. Sapete, quell'ingegnoso procedimento con cui non mi ricordo chi è riuscito a rendere vana la decisione della giuria, non so se al quinto o al sesto processo Sofri, o pressioni sulla giuria, che è il procedimento un po' meno ingegnoso ma sempre efficace con cui, a quanto si dice, ci si è assicurati una sentenza favorevole al processo successivo, o da un punto di vista più generale si sono dimostrati attaccati come ostriche al classico scoglio a tutti i loro poteri, compreso il diritto di attenersi al proprio libero autoconvincimento a prescindere dall'esistenza di prove a favore o contro, e poi hanno fatto capire di considerare un diritto inalienabile quello di esprimere il gradimento, anzi più che esprimere il gradimento, di esercitare il veto su qualsiasi legge o riforma che riguardi il loro campo di competenza e la loro organizzazione interna. Come sa il senatore Boato, che non è una figura forse simpaticissima, ma comunque resta un eletto dal popolo, non l'esponente di una corporazione in cui si viene cooptati per concorso, e nonostante questo è stato costretto a scriversi 4 bozze di fila della sua relazione ed archiviare la quarta. Su tutto questo, a quanto pare, Flick e i suoi colleghi non hanno nulla da dire, a loro basta che i giudici non rechino discredito all'azione di governo. Del discredito che con questo modo di fare gli arrecano loro, evidentemente non gli importa nulla.